tema suggerito per questa meditazione gira intorno alla grazia di Dio e poi alla nostra risposta. E quindi meditiamo un po' sul dono di Dio che precede sempre qualunque nostra risposta e sul fatto che noi siamo chiamati a rispondere generosamente, e in questo modo Dio opera il bene nel mondo, nella Chiesa e nella nostra vita. Io penso che sempre ci aiuta meditare, cioè utilizzare la ricchezza immensa della Sacra Scrittura e anche della liturgia del giorno. Quindi a me ha colpito molto, e voglio tornare sul Vangelo della Messa di oggi, perché penso che possa, ho riflettuto un po', penso che possa proprio aiutarci a fare l'orazione su questo brano del Vangelo di San Matteo, e che narra la ben conosciuta scena di Gesù che cammina sulle acque, della tempesta sedata, e perché probabilmente ci può dare una luce interessante su questo argomento, no? L'aiuto di Dio, la nostra risposta, e proviamo a rileggerlo soffermandoci su quello che a me suggerisce, no? E sperando che possa servire a voi. Dopo che la folla ebbe mangiato, per cui siamo nella situazione dopo appunto la moltiplicazione dei pani, quindi dopo un miracolo importante che abbiamo letto recentemente anche nel Vangelo della Messa, e quelle famose 12 sporte piene, no? Che vengono raccolte dagli apostoli, e gli apostoli sono stati protagonisti di questo prodigio, e le folle, 5.000 uomini, ma anche le donne e i bambini, quindi decine di migliaia di persone, e hanno potuto mangiare perché Gesù ha distribuito loro 5 pani e 2 pesci che i discepoli avevano trovato, e da un altro evangelista sappiamo che Andrea aveva scoperto quel bambino, quel ragazzino che aveva con sé questa sporta, questo pranzo al sacco che è diventato cibo per tutti, no? Quindi la folla ha mangiato, si è resa conto di un miracolo, i discepoli hanno visto 12 sporte piene, se 12 sono gli apostoli e 12 portavano queste sporte, l'hanno proprio sentito, no? con la forza delle loro braccia, questo cibo avanzato che è segno della generosità del dono di Dio, la generosità del dono di Dio, e la sovrabbondanza del dono che Gesù ci fa. In quel caso di cibo per il corpo, perché sennò insomma, morivano di fame o perlomeno svenivano lungo la strada, però che è segno della grandezza del dono spirituale, dell'amicizia con Lui, della intimità con Dio attraverso il dono della grazia, no? Ed è anche segno dell'Eucaristia, che è il canale più importante, il sacramento più importante attraverso cui noi riceviamo l'autore della grazia, quindi è proprio il dono più grande che possiamo ricevere, no? Dopo che la folla aveva mangiato, questo è il contesto, sono tutti presi da questo grande prodigio. Subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. E questo a me colpisce, vedere che Gesù costringe i discepoli, e non è il suo stile, normalmente Gesù convince, propone, in quel caso li forza un po'. Io mi immagino che avranno discusso un po', perché i discepoli hanno detto: ma se noi andiamo via, tu rimani con tutte queste migliaia di persone, magari sei in difficoltà, oppure ma come fai poi a raggiungere l'altra riva? Dovrai chiedere la barca a qualcun altro, dovrai chiedere ad altre persone, insomma, vabbè, dopo alla fine si capisce che loro, dopo un miracolo di questo tipo, danno retta al Signore, no, non è il primo che fa, e quindi Gesù ha autorità, quindi loro si lasciano costringere a salire sulla barca, si fidano di lui e vanno verso l'altra riva. E si capisce, da come poi si legge più avanti, che sicuramente Gesù ha già in mente alcune cose che vuole fare, no? Perché dice ai discepoli: andate via, andate, precedetemi, no? Forse gli ha dato un incarico, preparate un po' di cose di là, preparate la strada, no? Per dove ancora devo andare. Però sicuramente dal Vangelo capiamo che ha in mente almeno tre cose. La prima è congedare la folla, e forse Gesù vuole dire a loro qualcosa che vuole dire senza la presenza degli apostoli, può essere anche questo, qualcosa che quindi noi non sappiamo. Voglio dargli un saluto personalissimo, e forse possiamo dedurre da questo che in qualche modo, così come vediamo Gesù che a volte ha la passione di incontrare personalmente i vari personaggi del Vangelo che incontra, anche con la folla, in questo caso ha voluto essere da solo a parlare con loro, chissà che cosa gli ha detto, o forse ha voluto parlare a tu per tu con qualcuno. Sta di fatto che questo è il primo, è la prima azione che fa Gesù da solo: congeda la folla, riesce a farlo. Normalmente la folla si accalca, lo schiaccia, tutti lo vogliono toccare, invece in quel caso riesce a convincerli ad andare, a tornare a casa. Li ha cibati, ora devono tornare. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. E questa è la seconda cosa che aveva in mente di fare Gesù. Perché Gesù ha mandato i discepoli lontano, sull'altra riva, perché volevi salire sul monte in disparte a pregare. E questo, ci stiamo avvicinando poco a poco, no? Entrando nella scena del Vangelo, per arrivare poi a quello che è il clou, è il momento culminante dell'episodio che il Vangelo racconta, ma senza trascurare i piccoli particolari che il Vangelo sempre ci dona. Quindi Gesù sale sul monte in disparte a pregare. Forse ha sentito il desiderio di pregare da solo. Infatti poi dice il Vangelo: venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. Quindi praticamente è la seconda parte della giornata, il pomeriggio, la gente ha tempo di tornare a casa per la sera, e lui è sul monte e arriva la sera e lui è ancora lì. E poi vedremo che si ferma anche durante la notte. Bene, allora, venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. Quindi io la prima considerazione che faccio di preghiera su questo inciso del Vangelo è che anche a noi può venire desiderio il desiderio di un po' di solitudine, di un po' di pace, di un po' anche legato anche ad una preghiera più serena, più tranquilla, più continua. Ed è un desiderio umano, è nobile, lo ha avuto Gesù. E quando possiamo lo attiviamo. Non è una cosa cattiva, voler stare da soli un po', mi viene in mente quel punto di cammino sì, che se volete può avere anche una sua dimensione di misteriosità, insomma, non chissà che cosa vuole dire, però in cui San José Maria dice di cercare ogni giorno qualche minuto di quella benedetta solitudine che è così necessaria per far progredire la vita interiore, cioè la vita di relazione con Dio, la vita di di orazione, la vita di preghiera, no? Qualche minuto di quella benedetta solitudine. Quindi esiste anche una solitudine benedetta, accompagnata, ecco, con la presenza di Dio. Sappiamo per esperienza personale e altrui che esiste anche un'altra solitudine, che è quella invece in cui ci sentiamo proprio soli, eh? E magari quindi cerchiamo anche il Signore e non lo percepiamo vicino. Allora, forse in quel caso dobbiamo ricordarci che quel tipo di solitudine è una prova che anche Gesù ha sofferto in altro modo, no? Mi lascerete solo, no? Dice ai discepoli. Comunque è la solitudine che si può soffrire anche quando ci sono molte persone intorno, abbiamo una relazione con molte persone, ma magari ci sentiamo non capiti in profondità da nessuno. È una prova che Gesù ci può dare a chiunque, e che noi dobbiamo interpretare come una delle prove che ci possono mettere in contatto con Lui, perché ci possono identificare con Lui, perché anche tu, Gesù, hai avuto questa prova. E da un altro punto di vista possiamo dire, rispetto alla prova, vi ricordate, no, che anche San Josemaria in una omelia verso la santità dice che, enumerando tutta una serie di possibili difficoltà, prove interiori che vengono a chi segue Gesù da vicino, cita anche la solitudine. E la intende, credo, in questo senso, perché lui era sempre attorniato da tante persone, quindi non era un problema di solitudine dal punto di vista dell'isolamento fisico. Ma chi o quando proviamo una prova di questo tipo, quando percepiamo una prova di questo tipo, possiamo ricordarci di questa immagine che dice il Vangelo oggi: Gesù solo sul monte a pregare, no? Venuta la sera egli se ne stava lassù da solo. E questo ci può dare un'idea, è uno spunto che ci aiuta. Voglio raggiungerti Gesù là, dove stai da solo sul monte. Quindi io sento la solitudine, tu sei da solo, ti raggiungo, e così, come dire, curo la tua solitudine e tu curi la mia. Ricordo che sapete che sono tante di quelle rivelazioni anche private sul Vangelo, ecco, in una di queste, in una situazione simile, Gesù da solo si immagina quella che ha ricevuto queste rivelazioni private, che comunque invece Giovanni, l'evangelista, il giovane, raggiunga Gesù e poi gli faccia compagnia, lo abbracci, ecco, lì quando sono attorniati dalla tempesta. Comunque, lo cito solo così genericamente come un riferimento a qualcosa che può anche essere successo. Un discepolo che vede Gesù da solo, e lo raggiunge nella sua solitudine. E la barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Per cui noi possiamo anche dire a Gesù con semplicità che ci colpisce questo suo rimanere a pregare tanto tempo, sapendo che i discepoli sono in difficoltà. Si vede che tu, Gesù, li hai voluti lasciare nella difficoltà, potevano anche cavarsela, ma non sono riusciti. Io penso perché loro capissero, perché gli venisse impresso nella mente quello che sarebbe poi successo nella Chiesa tante volte, no? Che sarebbe successo. Che la prova di stare la Chiesa, o una parte della Chiesa, o anche semplicemente ciascuno di noi, nella tempesta, no? Nelle difficoltà. Adesso noi ricordiamo in questo momento, molti cristiani che sono nella tempesta, hanno dovuto fuggire dalle loro case per salvare la vita, hanno dovuto abbandonare le case, le chiese, e sono profughi, rifugiati, esuli, fuggiaschi. E non è la prima volta che succede, anche se noi in questo momento siamo contemporanei, quindi dobbiamo sostenerli con la preghiera e chi può con il suo aiuto. Ecco. Tutta la Chiesa italiana il 15 agosto ha indetto una giornata di preghiera per loro e si propone di fare diverse cose in aiuto a questi nostri fratelli nella fede provati a causa della loro fede, quindi sono martiri della fede. E non, quelli che danno la vita, senza quelli che muoiono, senz'altro, ma quelli che vengono uccisi per questo, ma anche quelli che devono scappare per la loro fede, no? In questo ci rendiamo conto che per quanto grandi possono essere le difficoltà che noi soffriamo, ci sono difficoltà più grandi per le quali il nostro Signore evidentemente dà la sua grazia per sostenerli, però conta anche sulla solidarietà, sulla comunione dei santi, sulla nostra vicinanza di preghiera e anche concreta. No? E Gesù però sa, quindi vuole lasciare impresso a questi che saranno i suoi discepoli, i suoi apostoli, le colonne della Chiesa, dovranno guidare la Chiesa in momenti di difficoltà, di persecuzione. E loro devono capire che sarà così, che potrà succedere tante volte così, che la barca, che è un po' il simbolo della Chiesa, è agitata dalle onde e rischia, perlomeno dà l'impressione a loro, di rischiare di affondare, quindi anche di perdersi la loro vita. E Gesù, tu, noi siamo ammirati, colpiti, sorpresi dal fatto che tu te ne stai là solo sul monte a pregare per molte ore e i tuoi discepoli stanno in mezzo al mare tra le onde nel vento contrario. E noi, sapendo che tu sei Dio e anche hai la scienza divina, quindi anche hai la scienza del futuro, sapevi questo, sapevi questo. E i discepoli avrebbero potuto anche in qualche modo rimproverarti e dire: ma tu che sapevi? Perché ci hai mandato, ci hai costretto ad andare, addirittura, ci hai costretto ad andare verso la tempesta, che noi non potevamo immaginare. Ma non lo fanno dopo, non protestano con Gesù, perché è tale la forza dell'insegnamento che dà loro in quella notte, sul lago, in tempesta, che capiscono che c'era dietro un suo disegno molto profondo, che anche noi cerchiamo di scrutare oggi e cerchiamo di attingere alla sua forza, alla sua grazia. Quindi la barca distava già molte miglia, era agitata dalle onde, il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: è un fantasma, e gridarono dalla paura. Pensate, questo potremmo anche definirlo il Vangelo delle tre paure, perché c'è sicuramente, anche se non è raccontata, la paura che tutto finisca, cioè che loro affoghino. La paura di non avere Gesù sulla barca, perché avevano fatto l'esperienza di Gesù sulla barca che si addormenta nella tempesta, poi lo svegliano e lui placa i venti e il mare, ma Gesù in quel momento non è con loro. Quindi vedete, forse Gesù li sta aiutando a comprendere quello che poi alla fine della vita dirà in parole povere ma ricchissime: senza di me non potete fare nulla, non rimanete con me, come il tralcio rimane nella vite, dimorate con me, abitate con me, state con me, perché se no non potete fare nulla. Questo glielo dice alla fine della vita con delle parole che Giovanni riferisce nel suo Vangelo, ma gliel'ha detto già in questo momento, lungo questi 3 anni, gliel'ha detto con questo fatto. Quindi c'è la prima paura, paura di morire in mezzo al mare, angoscia. La seconda paura è che Gesù arriva, ma loro pensano che sia un fantasma. A noi viene quasi un po' da sorridere perché sappiamo che poi le cose vanno bene, però proviamo a metterci nei loro panni. Accade a loro una cosa mai vista, mai raccontata, mai avvenuta. Quindi il tuo aiuto, Gesù, quando noi siamo in difficoltà, può arrivare anche in un modo imprevisto, in un modo assolutamente nuovo. E noi dobbiamo essere capaci di cogliere il tuo aiuto, la tua grazia, la tua grazia attuale, la tua ispirazione, che può arrivarci attraverso una via totalmente nuova, da una strada imprevista. Noi facciamo il proposito di chiederti questo aiuto: Signore, aiutami, Signore, fammi capire che cosa vuoi da me, Signore, dammi la luce per intraprendere la strada giusta in questa difficoltà, in questa situazione della mia vita. Ma poi ti chiedo l'aiuto di saper scorgere la tua azione, il tuo suggerimento. Voglio essere aperto, no? Magari mi arriva da una persona a cui non ho dato molta importanza, ma una persona addirittura, come succede qualche volta nella scrittura, una profezia che arriva addirittura da una persona pagana, no? E a volte senza volerlo, no? Un suggerimento. Comunque, fantasma è e loro hanno paura, così forte che gridano. Ma subito Gesù parlò di loro dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Evidentemente la parola di Gesù, la voce di Gesù aiuta a rasserenarsi, tanto che Pietro è conquistato da questa situazione, quello che loro speravano, se il maestro fosse qui, no? Noi non staremmo in queste circostanze. E il maestro arriva in una situazione così nuova, cammina sulle acque. Non l'abbiamo mai visto fare una cosa di questo tipo. E ci spaventiamo. Però poi dopo il Signore Gesù toglie loro la paura: coraggio, sono io, non abbiate paura. E allora a Pietro gli viene voglia di fare una cosa, anche lui, nuova, mai fatta, imprudente, imprudente, imprudente. E chi di noi può pensare di uscire dalla barca, di provare a camminare e in una tempesta, no? Sarebbe come un suicidio. E invece Pietro gli dice: Signore, se sei tu, quindi lo vuole mettere alla prova, ma poi è una prova un po' irrazionale, perché se anche non era lui, era un fantasma, gli dice: sì, vieni, che così affoghi, no? Però è questa la dimensione, a volte o sempre, della nostra fede, no? Cioè è un tuffo pieno di fiducia, in un certo senso possiamo dire così, ecco, nell'oscurità, che poi si riempie di luce. E quindi è un atto di fede, è un atto di speranza, è un atto d'amore, tutte e 3 le cose insieme. Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Cioè, io non faccio questo gesto di imprudenza, ma mi è venuto in mente. Mi è venuto in mente. Se sei tu, dimmi che lo posso fare, dimmi di farlo, no? E provate a pensare, a volte può succedere, no, nella nostra vita qualcosa di questo tipo, no? Una situazione simile. E il Signore dice: vieni. Possiamo dire a Gesù che a te è piaciuta questo slancio di Pietro. Noi, pensando alla grazia di Dio che ci suggerisce tante cose, che ci aiuta a compierle, e alla nostra risposta, possiamo vedere questo episodio come un paradigma, come un esempio. Gesù che arriva magari in modo imprevisto, sembra un fantasma, cioè una sorpresa. E allora mi suggerisce dentro il cuore uno slancio e mi dice di compierlo. Quindi la risposta di Pietro è una risposta generosa, che va addirittura al di là di quello che il Signore gli chiede. Non gli ha chiesto il Signore, forse gliel'ha suggerito interiormente, no? Come fa lo Spirito Santo con noi tante volte. Però lo conferma, vieni pure, vieni. Sono io, vieni, non temere. Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì. Ecco la terza paura di questo brano del Vangelo. E cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami. Io penso che anche questa situazione ciascuno di noi può applicarla ad alcune vicende della propria vita. Quando abbiamo risposto con slancio al Signore facendo una cosa un po' imprudente, in fondo dobbiamo pensare, se ci pensiamo bene, tutto il cristianesimo è un'imprudenza, cioè tutta l'opera della salvezza da parte di Dio è un'imprudenza, è una follia d'amore, cioè pensate Dio che si fa uomo. Noi, siccome lo crediamo e lo diciamo nel credo, tutte le volte che recitiamo il credo lo diciamo agli altri. E poi c'è tutta la storia della Chiesa che l'ha fatto diventare anche una verità dichiarata solennemente, un dogma della fede, cioè una verità stabilita che non si può negare se non si vuole, diciamo, uscire dalla Chiesa. E per cui per noi è scontato. Ma questa è una follia, cioè una cosa mai vista prima, una cosa impensabile, un mistero così grande che Dio si faccia una creatura, che Dio si faccia uno di noi, che si faccia un bambino piccolo, anzi, prima ancora, possiamo dire un ovulo fecondato dallo Spirito Santo nel seno di una donna di nome Maria, piena di grazia. Anche lei riempita di grazia da Dio fin dal momento del suo concepimento, no? È una follia, è una pazzia d'amore, lo fa per amore nostro, no? Per cui ecco, quando ci troviamo di fronte a piccole follie, tipo camminare sulle acque, e anche quella di Pietro, da parte nostra deve essere un salto, una follia, però possiamo dire sia, è coerente con tutta la nostra fede, no? Che non contraddice la ragione, ovviamente, però al contempo la supera completamente. Come poteva la ragione umana arrivare a dire che Dio si può fare uomo, creatura, immortale? Non poteva. E allora in questo io penso che tu, Gesù, ci comprendi quando noi ci impauriamo, cioè ci impauriamo, sì. Perché nel camminare sulle acque, in una situazione così nuova, così divina, possiamo dire, no? Che è così, come dire, così fuori dall'esperienza umana, quindi se facciamo degli atti di generosità, degli atti d'amore grandi per aiutare gli altri, per amore di Dio, per amore degli altri, ci può venire paura. Perché possiamo perdere la sicurezza in noi stessi. E certo, se noi, lo dico per me, non, essenzialmente, poi se a qualcuno serve lo può prendere anche per sé, ma se noi ci muoviamo con la paura di sbagliare, quindi cerco di non fare in tutte le vicende della vita, no? Di non fare mai nulla che sì, ho la sicurezza, nulla che possa essere sbagliato da nessun punto di vista, ho la sicurezza per me, però qualche volta invece, per aiutare gli altri, il Signore mi può chiedere di essere santamente imprudente, come lo sono stati i santi tutti quanti. E noi abbiamo l'esempio di San José Maria, che, no? E in fondo tutti i santi, no? Adesso pensate, la figura di Pietro ci ricorda la figura dei papi, no? Tutti i papi sono stati imprudenti, no? Quelli santi che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni, quelli che abbiamo conosciuto nella nostra vita. E pensate adesso, pensando solo alla mia vita, certo, io non so, io ero piccolissimo, allora, Giovanni XXIII che indice il Vaticano II senza ascoltare nessuno, contro il parere, in fondo, di tanti, della curia, o perlomeno, sì, che è stato considerato da molti un'imprudenza. Grazie a questo concilio sono venuti tanti beni per la Chiesa. Paolo VI che comincia a fare tutti questi viaggi che non esistevano prima. Io ho visto un filmato recentemente, no, del viaggio di Paolo VI in Terra Santa. Paolo VI è in mezzo alla gente che lo schiaccia, non c'è nessuna sicurezza. E è sorprendente. Certo, era il 64 e un entusiasmo attorno a lui impressionante. Era Giordania allora, Betlemme, ecco. E mi ricordo assolutamente la visita alla casa di Nazareth e alla grotta della nascita, così, alla basilica della nascita. Allora, Paolo VI imprudenze, no? Giovanni Paolo II sempre di più, contro il parere appunto di quelli che gli dicevano sono anni che non si fa la, per dirne solo una, tra mille, la processione eucaristica a Roma, poi non verrà nessuno, oppure la messa degli universitari, non verrà nessuno, l'università assolutamente è un terreno così lontano dalla Chiesa, e invece si riempie San Pietro, invece si riempiono le piazze, le vie di Roma, dietro a Gesù che di nuovo passa per le vie, per le piazze, a benedire con la sua presenza eucaristica la città di Roma e tutti i viaggi che ha fatto, e contrastando anche il parere di molti che dicevano no, ma devi stare a Roma, devi curare, no? Ma mi ricordo Monsignor Descourt, che era il suo grande amico, che aveva avuto l'ictus e lo seguiva con la preghiera e con i consigli, e diceva santità, gli dava del lei, come anche se era suo grande amico, diceva le devo ricordare il quinto comandamento, cioè non uccidere, te non deve fare male a se stesso con questa vita così così dedicata, così, con questi viaggi così stancanti, rischia di mettere a repentaglio la sua salute. E il Papa gli rispondeva in vario modo, gli rispondeva, beh, morto un Papa se ne va un altro, e come dice adesso Papa Francesco, quando gli dicono, no, ma io voglio toccare la gente, quando vado a Rio de Janeiro, no? Diceva così, ma la sicurezza, e poi ci può essere l'attentato, pazienza, tanto non perdo molto, sono già anziano, faranno un altro Papa, ma non voglio perdere l'occasione di toccare le persone, di benedirle, di baciarle, non voglio avere una frattura tra me e loro, un diaframma, santa imprudenza, no? di Pietro, oppure un'altra cosa, che tornando a Giovanni Paolo II, che lui diceva ad Andrei Descourt, al suo amico, gli diceva: Andrea, tieni presente che io ho la vocazione di Pietro, ma anche quella di Paolo. Il Signore mi chiede di fare da Pietro, ma anche da Paolo. Quindi Paolo viaggiava a trovare le chiese, no? A rafforzarle con la sua presenza. E pensate a Benedetto XVI, l'imprudenza di Benedetto XVI che si è dimesso, non l'aveva fatto mai nessuno, non si è mai visto, tant'è vero che alcuni sono scandalizzati pure, o si sono spaventati, no? Io ho sentito quello che era nella stanza, nell'ufficio vicino al mio, si è spaventato quando ha visto la notizia su internet, non so, sui social network. Però subito siamo andati a vedere, uno, un bravo ragazzo che lavora in queste cose, ha mandato subito la notizia del canone del diritto canonico in cui era prevista la dimissione del Papa, quindi siamo andati subito a vedere, beh, tranquilli, è una cosa prevista dal diritto canonico, punto, c'è nessun problema. Però non era mai stato visto e ha affrontato seguendo quello che Dio gli chiedeva. E dopo, con quello che è avvenuto con Papa Francesco, lui si rafforza sempre di più nella convinzione che ha fatto quello che doveva, no? A parte che veramente chi gli sta vicino a Benedetto XVI vede che ha veramente poche forze, non poteva, no? È stato prudentemente imprudente, no? È stato molto prudente imprudentemente. E Papa Francesco, potremmo dire tante cose, no? Sempre nella stessa linea, appunto quello che abbiamo citato della non paura degli attentati o lo stile con cui sta portando avanti la Chiesa, che non bada troppo, anche se qualche volta ci bada, ovviamente ci bada, a quello che dice la gente, diciamo, quindi fa quello che ritiene che sia utile, opportuno, che Dio gli chieda, che serva la Chiesa. E quando doveva andare a trovare l'amico, diciamo così, pastore protestante, insomma, a Caserta, lui ha avvisato il vescovo che era stato appena nominato, no? Devo venire a vedere questo amico, pensava di farlo in modo privato, il giorno della festa patronale. Allora lui, il vescovo gli dice: ah, che bello, è la festa patronale, Sant'Anna, no? Di Caserta. Allora il Papa ha detto: ah, se è la festa patronale, come faccio io a venire a trovare, e non vengo a trovare voi e vengo a trovare questo amico? Allora ha fatto due viaggi, prima a Caserta per la festa patronale e due giorni dopo è andato a trovare l'amico protestante nella sua piccola comunità. Quindi sta attento anche a questa, cioè dice la gente cosa dirà, ecco, però in quel caso era opportuno fare questa cosa, no? Secondo lui. E in altri casi invece passa sopra, cioè va avanti, e perché questa era una realtà che non conosceva, un'obiezione valida, che fra l'altro ha fatto nascere un viaggio bellissimo, c'erano 200.000 persone alla sua messa, cioè una cosa che è durata solo un pomeriggio, ma ha fatto un incontro con i sacerdoti bellissimo. Per cui, bene, allora voglio dirvi, Pietro, e quindi preghiamo per Pietro, no? Per il Papa, perché possa fare sempre così come Pietro, cioè lanciarsi a camminare sulle acque, no? Se, per andare da Gesù, per fare quello che Gesù vuole. E anche preghiamo per noi, perché riusciamo a fare questo, no? E comunque quando ci viene la paura, perché ci viene la paura, no? Che è un sentimento molto umano, che la paura è il timore di perdere un bene che abbiamo acquisito, in questo caso la paura di perdere la vita. Allora la preghiera Signore salvami ci aiuta molto, no? E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: davvero tu sei figlio di Dio. Non so se conoscete, ma con questo concludo, un episodio della vita di San José Maria in cui lui sentì queste parole: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Era in Argentina, aveva già fatto alcuni incontri nel teatro Colosseo con tante persone belli e molto consolanti, però si sono accorti gli organizzatori che c'era un giorno libero in cui non era previsto un incontro, ma gli hanno proposto, forse era anche una domenica, gli hanno proposto di farne un altro che non era in calendario, il 26 giugno del 74, e lui sulle prime disse, pensò: ma non verrà nessuno, è domenica, ma poi magari un altro giorno, ma mi sembra di ricordare che fosse domenica, ma poi mi hanno già sentito due volte, tre volte, ma cosa volete che vengano a sentire questo pretino, no? Come diceva lui, che e quindi però ha detto: però fate un po' voi, valutate voi, fate come volete, però era scettico. Loro comunque l'hanno organizzato e poi mancavano tre giorni, quindi tre giorni chi avvisi, no? Allora non c'erano neanche i mezzi di comunicazione che ci sono adesso, rapidi, per avvisare le persone. E lui andò verso questo incontro pensando: sarà un flop, sarà un po' un piccolo fallimento, ci sarà poca gente. E invece quando entra dentro nel teatro, nel palco, vede tutto pieno di gente, piena di affetto per lui, piena di desiderio di ascoltare le sue parole, dentro di sé sente queste parole di Gesù: uomo di poca fede, perché hai dubitato? È una piccola cosa. Poi lui la raccontò nel viaggio subito dopo, no? Subito dopo, quando, e venne fuori un incontro forse il più bello di tutti, che noi ancora oggi qualche volta vediamo filmato, molto commovente, molto denso, densissimo di cose belle. E allora Quindi questo lo dico anche perché non dobbiamo spaventarci di avere questi momenti di dubbio, è solo che dobbiamo poi riprenderci, dire Signore salvami, e poi dire va bene, anche a me è capitato questo, sento anche per me le parole di Gesù che mi dice uomo di poca fede perché hai dubitato, e poi mi inginocchio sulla barca, placato il vento, e dico davvero tu Gesù sei il figlio di Dio e che tua madre santissima, anche nostra madre, ci aiuti a riconoscerti, a capire che tutto quello che tu prevedi nella nostra vita ha un senso, da te pensato, tutto ha una provvidenza tua, ti voglio riconoscere quando vieni da me anche in modi nuovi, voglio risponderti con generosità, voglio chiederti aiuto quando sto per affondare, sentire il tuo braccio forte che mi solleva e dire con gli altri l'atto di fede, credo veramente, Signore, che tu sei il Figlio di Dio, sei il Salvatore, sei il mio Signore.